con Alessandro Agostinelli per parlare del Festival del Viaggio a Viareggio, Villa Paolina, dall'11 al 15 settembre 2019. Alessandro, ben trovato. Ciao, buongiorno, buonasera. Per chi non lo conoscesse, descriviamo cos'è questo festival. Allora, il Festival del Viaggio è il primo festival italiano nato per chi ama viaggiare. Ormai sono 15 anni di storia, poi a seguire molti ci hanno copiato e noi siamo fieri di questo. È un festival monotematico perché parla di viaggio, appunto, e multidisciplinare, nel senso che al suo interno su questo tema possiamo sfruttare varie possibilità, dalle mostre fotografiche alla presentazione di videodocumentari, film, presentazioni di libri, teatro, conferenze, musica, incontri e altre cose. Insomma, nel tempo al Festival del Viaggio, che ha come sedi principali Firenze e Palermo ormai da un bel po' di anni, sono passati tutti i più grandi viaggiatori, i maggiori scrittori italiani, artisti, e abbiamo fatto anche dei gemellaggi con un festival russo e con un festival spagnolo nelle Canarie che si chiama Periplo. Insomma, è un luogo dove si fa cultura del turismo e cultura del viaggio, perché pensiamo che in realtà viaggiare sia un modo per scarnificare l'identità, cioè che vuol dire? Pensiamo che viaggiare sia una maniera per mettersi a confronto con altre culture. Spesso quando andiamo in giro, dalle cose più banali, per dire il materasso dove dormiamo ci sembra diverso da quello dove siamo abituati a dormire ogni notte, il cibo spesso non è uguale a quello che siamo abituati a trovare sulla tavola di casa, e questo per noi è un bene perché ci aiuta a capire che dove poggiamo i piedi non è solo casa nostra. Alessandro, come si caratterizza l'edizione di quest'anno? L'edizione di quest'anno è caratterizzata per la prima volta da un unico polo dove si concentra tutto. Nel tempo il Festival del Viaggio, oltre a Firenze e a Palermo, ha avuto edizioni, le prime tre a Pisa, poi a Milano, a Venezia un'edizione e ad Arezzo un'altra, però in tutti questi luoghi, anche Firenze e Palermo ogni giugno, facciamo questo festival diffuso, per dire a Palermo al Museo delle Marionette, all'Istituto Cervantes, al Centro Avventure nel Mondo di Mondello, a Villa Niceni, e quindi diffuso nella città. Così a Firenze, al Museo Antropologico, all'Istituto Tedesco, all'Istituto Francese, e quindi ci diffondiamo in città. Questa volta a Viareggio, città di mare ma anche città del viaggio, per esempio, faccio una parentesi, la città dove è nato il turismo balneare, dove per la prima volta sono stati messi in piedi degli stabilimenti balneari per far fare i bagni alle persone che arrivavano in villeggiatura. Chiusa la parentesi, a Viareggio per la prima volta abbiamo Villa Paolina, cioè un unico posto con un bellissimo giardino dove abbiamo infilato dentro tutte le cose che secondo noi sono utili, cioè una città del viaggio. Abbiamo una libreria del viaggiatore, una gelateria, un punto ristoro, un'agenzia di viaggi che vende a prezzi scontati per il festival, abbiamo una parafarmacia dove si danno consigli a tutti su cosa portare in valigia se si fanno viaggi in luoghi lontani o esotici o problematici. Abbiamo un laboratorio bambini, abbiamo un mercatino vintage, quindi in un unico spazio raccolto si condensano tutte queste attività che noi abbiamo chiamato la città del viaggio. Però insieme a questo c'è anche il programma, chiaramente. Quanti saranno gli eventi di questi giorni? Sostanzialmente sono un po'. L'11 settembre ci sembrava giusto parlare di quello che è accaduto negli Stati Uniti nel 2001. Abbiamo invitato Giulio Borrelli. Giulio Borrelli è stato per tantissimi anni uno dei volti del TG1 ed è stato nella sua finale di carriera corrispondente per la RAI dagli Stati Uniti ed è stato quello che ha raccontato all'Italia le Twin Towers, cioè l'attacco dell'11 settembre. E quindi gli italiani, diciamo, più o meno si quello che è accaduto anche dalla sua voce. Abbiamo ripescato, ora lui è in pensione, fa il sindaco in una cittadina dell'Abruzzo e verrà a raccontarci insieme a Giorgio Van Straten, che è stato fino a pochi giorni fa direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, insieme ci racconteranno quell'11 settembre del 2001. E poi abbiamo altri personaggi, ci sarà Paolo Hendel che ci racconta come viaggia un anziano, perché ormai ahimè anche lui ha una certa età, ci sarà Paolo Migone che ci racconta tutti i viaggi impossibili che non ha fatto perché gliel'hanno impedito, ci sarà Tiziano Fratus che ci racconterà delle sequoie millenarie nella California e del problema oggi annoso degli incendi che stanno distruggendo l'Amazzonia. E poi abbiamo anche Paolo Crepè che invece farà un viaggio intorno a un tema abbastanza interessante, cioè quello del bullismo. Cosa c'entra il bullismo col viaggio? Ve lo spiego brevemente. Spesso i direttori scolastici, i dirigenti scolastici, i presidi dicono: sì, ma quel caso di bullismo è avvenuto fuori dalla scuola, io non posso farci niente come scuola. E spesso abbiamo visto che molti episodi di bullismo avvengono sui mezzi di trasporto pubblici, cioè sugli autobus. Allora, in questi mezzi di trasporto avvengono delle cose. C'è un'azienda del trasporto pubblico locale toscano che ha fatto dei video fatti dai ragazzi sul bullismo dentro gli autobus, e Paolo Crepè viene a raccontarci di come, diciamo, arginare questo problema. E allora ricordiamo la 15ª edizione del Festival del Viaggio a Viareggio, Villa Paolina, dall'11 al 15 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore Alessandro Agostinelli. Alessandro, in chiusura ci lasci i riferimenti web per tutte le informazioni? Certo, i riferimenti web sono festivaldelviaggio.it e lì troverete tutto aggiornato, ma anche su Facebook, la nostra pagina del Festival del Viaggio, dove poi Twitter, Instagram, però su Facebook abbiamo, diciamo, l'aggiornamento maggiore in questi giorni. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima! Grazie a voi, crepi il lupo, ciao!